Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brucellando Maridia ai microfoni, vi augura un'ottima ora in nostra compagnia. Sono particolarmente contenta, come è accaduto già nelle scorse settimane, perché ho avuto il piacere di poter intervistare telefonicamente Cristiano De André. È stata per me una profondissima emozione perché Cristiano si è raccontato, ci ha raccontato, come ascolterete, cose molto belle della sua vita personale, della sua vita di artista. Tuttavia ci tengo a sottolineare immediatamente, lo ripeterò anche alla fine dell'intervista, che il concerto non avrà luogo sabato 30 maggio, così come avevo erroneamente capito, ma venerdì 29 maggio alle ore 20:30 presso l'Istituto Italiano di Cultura, quindi ne approfitto per salutare anche l'Istituto. Il concerto di Cristiano sarà aperto da Niccolò Carnesi e, come sempre, ringraziamo le persone che hanno reso possibile questa opportunità, e cioè Piola Libri e Beit Life. Qualche parola, probabilmente Cristiano non ha bisogno di alcuna presentazione, però insomma, mi fa piacere ricordarlo, e praticamente venerdì interpreterà sul palco i suoi successi, i brani del suo ultimo album, Con un cielo così in guerra. A un certo punto poi questa espressione, essendo così nota nel parlare, tra l'emozione e una cosa, diventa, non si capisce più tra terra, guerra, essendo la comunicazione telefonica a distanza. Quindi ci canterà Invisibili, Credici, Non è una favola, nonché alcuni capolavori di Faber, ormai entrati a far parte del repertorio live di Cristiano, da Andrea, Creosa De Ma, La canzone di Marinella ed altri. Il concerto quindi si annuncia ricco di intense emozioni, che esalta anche quella formula dell'acustico che praticamente è una delle caratteristiche più peculiari e tipiche di Cristiano. Quindi questo tour è un tour polistrumentale, così come avrete potuto accompagnare, e Cristiano sarà accompagnato da Osvaldo Di Dio, per un concerto quindi che si annuncia intimo ma coinvolgente tra voci, bouzouki, piano e chitarre. Come dicevamo anche in apertura, Niccolò Carnesi, vale la pena spendere una parola anche su Niccolò, è sicuramente uno dei nomi più brillanti della nuova generazione di cantautori italiani. Autore di canzoni dai testi acuti, sottili e cinici, che viaggiano su sonorità elettroacustiche influenzate dalla tradizione italiana e dal British Pop degli anni 80. Niccolò ha esordito con un album dalle molte sfaccettature, proponendosi ora come cantautore nella tradizione nazionale, ora come funambolico, creatore di brani di blues elettronico, ora come autore lirico e contemporaneo. E quindi, insomma, veramente ci sarà il meglio del meglio in questo concerto che, come dicevamo, per l'appunto è effettivamente interessantissimo. Quindi Istituto Italiano di Cultura, per quanti volessero acquistare biglietti, è ancora possibile, vi ricordo, prezzo veramente modesto, 20 euro in prevendita, 24 all'ingresso. Quindi vi ricordo il sito di Beit Live, beitlive.com. Quindi vi ricordo però che il concerto è venerdì 29 maggio, dalle ore 20:30. Quindi io mi unisco all'orgoglio della Beit Live, di Piola Libri, dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, perché mi hanno dato la possibilità veramente di vivere un'emozione intensa, forte, nel parlare con uno dei protagonisti, uno dei nomi che hanno caratterizzato quella che è la scena musicale italiana. L'audio della conversazione mi sembra essere straordinario, nonostante le distanze che ci dividevano, ma stiamo lavorando anche a questo, quindi ci saranno dei miglioramenti. Sapete, una struttura radiofonica ha comunque dei costi. Le interviste telefoniche spesso non sono sempre il meglio in termini di qualità di suono, ma vi assicuro che stiamo lavorando affinché anche la struttura della radio, così come è nato l'interesse crescente anche per gli operatori culturali di questa città, che dalla nuova stagione ci saranno finalmente nuove strutture. Quindi vi lascio con un brano, con il primo brano di Cristiano, e poi sentiamo quello che ha raccontato ai microfoni di Radio Alma, di Brussellando. Quindi restate con noi, pazientate un paio di minuti per ascoltare poi la voce di Cristiano De André in concerto il 29 maggio, quindi questo venerdì, presso l'Istituto Italiano di Cultura. Cari amiche e cari amici, come avevamo già annunciato in più di una trasmissione qualche tempo fa, sono molto contenta perché è ospite in collegamento telefonico dall'Italia Cristiano De André. Cristiano, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Cristiano, noi... tutto procede. Tutto procede, tra qualche giorno sarai a Bruxelles, quindi noi siamo veramente in trepida attesa per poterti ascoltare. Allora, è la prima volta che abbiamo il piacere di parlare con te dai microfoni di Radio Alma, dai microfoni di Bruxellando, quindi volevo farti una domanda un po' a 360 gradi. Chi è Cristiano De André? Beh, è difficile, è una domanda veramente ampia, perché la risposta avrei bisogno di qualche ora. Cristiano De André è un musicista, più che altro, quindi se vogliamo ridurla alla musica, è un musicista che ha fatto conservatorio, ha studiato il violino, è uscito con un gruppo che si chiama Tempi Duri nell'82, e poi ha proseguito da solo dall'85 poi facendo 7-8 album e quindi la mia vita è la musica. Mio padre è chiaramente Fabrizio De André, e quindi sono Cristiano De André, anche figlio di Fabrizio De André. E probabilmente questa è una cosa che si sa, che si sa di più all'estero, perché mio padre è in Europa, anche con lui ho lavorato, è stato riconosciuto, quindi io faccio un'altra musica, canto anche le canzoni sue, ma perché ho fatto due dischi dal vivo, riprendendo alcune sue opere da quando è mancato, dopo 10 anni, 25 sue opere, l'ho riportate con la mia visione a musica più world, più vicina a me, ai miei gusti. Quindi è stata un'operazione che in Italia ha funzionato molto bene e che mi piacerebbe per adesso proporre a Bruxelles una versione più acustica, però molto interessante, perché mio padre credo che sia una medicina per l'anima, quindi deve essere davvero conosciuto dappertutto. E poi anche io chiaramente non canto solo mio padre, canto le canzoni mie, canto la mia vita, quello che ho scritto nei miei dischi, quello che ho vissuto e che vivo. Bene, allora questa è una bellissima cosa, perché i tuoi dischi sono sempre molto ricchi di contenuti. Allora ho una curiosità. De André canta De André, volume primo e volume secondo. Sono stati forse il preludio di Comincello così in guerra, perché ci sono tanti sentimenti, secondo me, che tu hai rivisitato in questi due volumi, anche rispetto alla relazione con tuo padre, il rapporto che avevi instaurato con lui. Sì, beh, è stato un modo anche per velocizzare tanti fantasmi, tante ombre. Essere figli di un genio non è facile in tutti i sensi, ma comunque non è neanche male, quindi insomma bisogna andare d'accordo le due parti. Certo. Quindi trovare un giusto balance, insomma. Direi che prendendo queste opere e ricantandolo ho fatto un po' a pace. Tante cose, ho esorcizzato molte cose e l'ho capito molto di più, ho capito davvero lui, ho affrontato dei testi che conoscevo, ma che cantandoli non avevo proprio così scavato, non ero riuscito ad andare davvero più in fondo. E quindi mi è servito per capire la grande fatica che ho fatto e le grandi cose importanti che ho detto. Ho fatto pace con lui, perché comunque non è mai stata una persona facile, per le sue difficoltà, insomma, anche personali, ma anche nei confronti con i figli. Insomma, è stato terapeutico. Sicuramente mi ha aperto la strada per il mio ultimo disco, che Comincello così in guerra. Ma è sempre stata una strada comunque che infatti Come in cielo così in terra, secondo me, è l'album in cui ti racconti di più rispetto a quello, a quelli che tu hai prodotto in precedenza. E c'è una canzone che in particolare mi ha colpito molto, che è Credici. Ma io che mi racconto di più, no, perché anche in Scaramante mi racconto che si confia. È una visione più che altro un po' più politica di quello, ecco, di quello degli album precedenti. È un album più politico, più sociale, più indignato, perché in Italia in questo momento c'è solo da indignarsi. Meno male che non è Bruxelles. È un po' da meno male che Bruxelles non è l'Italia, perché qua non si sta così. Non siamo messi così bene, non è così rovinoso. Beh, noi l'Italia in effetti la sogniamo da lontano, quindi evidentemente poi alcune cose vengono filtrate anche a distanza. Allora parliamo di questo tuo album, perché c'è una canzone in particolare, che Credici, che mi ha colpito profondamente. Ce ne vuoi parlare un po'? È appunto per quello che io ti stavo parlando, della situazione politica, della situazione italiana, quindi Credici è un po' la fotografia di quello che penso, di quello che vedo intorno a me. E quindi il malaffare, la globalizzazione portata al recesso, quindi l'impero delle banche, la politica usata a scopi di lucro, tanto e non per fare politica, per stare dalla parte della gente, ma solo dalla parte di se stessi. Quindi insomma, abbiamo avuto 30 anni di un malgoverno terrificante e ancora adesso non ne sono usciti, nonostante ci siano altre persone. E quindi parlo di quello che non è più onorevole. Una volta si chiamavano onorevoli, magari lo erano certe persone, anzi molte persone che facevano il lavoro della politica. Si facevano chiamare tali perché davvero si impegnavano per cercare di far stare meglio gli altri. In questo momento qua è invece il contrario. È una lotta per stare meglio con se stessi, quindi fare e riempire il proprio giardino a discapito di quello dell'altro. E così ci stanno insegnando di fare, che la felicità si può comprare, che tutto quanto ha un prezzo, quindi è tutto un po' sul banco del mercato. E questo va a discapito dell'amore, sicuramente, di tante altre cose, molto più importanti. Senti, se tu ora dovessi scrivere una canzone post-Credici, cioè perché è una canzone in cui forse c'è un po' di tristezza, ma c'è speranza secondo te? Cioè l'arte almeno, la poesia, le canzoni, ci possono aiutare oppure alla fine no, vincono sempre gli altri? Questo è un bel punto di domanda, perché anche mio padre, sono 30 anni cristiano che scrivo canzoni contro la guerra, a favore delle minoranze, eccetera, non è successo niente, mi sono stufato. Però vedo invece, ho visto con Andrea Cavalli, ho visto con i miei concerti, comunque con i miei dischi, con quello che scrivo, che faccio, un sacco di ragazzi giovani che vengono e che hanno bisogno invece di poesia, di pane per l'anima, ecco, di ritrovare l'anima, questa. Di rimettersi nel petto come una cazza da Befana, con cose belle, con dei regali che si fanno a se stessi e agli altri, le persone che abbiamo vicino. Io ricomincerei proprio dall'amore, quindi dal desiderio di fare una cosa piacevole per la persona che abbiamo accanto. Questo credo che ci potrà salvare, se no non vedo altri rimedi. Ho una curiosità, tra le canzoni che hai ricantato di tuo padre, ce n'è una che hai rivalutato, che ti ha aperto magari il pensiero su altri orizzonti, su altri fronti, una canzone che consideri ora anche tua, profondamente tua? Ma non ce n'è solo una, ce ne sono alcune. Immagino, lo so, è una domanda un po' ardua, però magari una, quella che cade sotto la doccia. Ridurre l'opera di mio padre in una canzone è difficilissimo. Una canzone che adesso non canto più, probabilmente Amico Fragile, perché sento di essere sotto molti aspetti come lui. Soprattutto quella canzone lì, la sento molto mia. Allora Allora, toglimi ancora una curiosità. Quando tu canti in Italia o quando canti all'estero, noti delle differenze rispetto al pubblico? Hanno delle richieste diverse? Percepisci qualcosa di diverso oppure tutto sommato no, non c'è nessuna differenza? Di solito sì, certo, sono delle canzoni che sono andate più all'estero, come per esempio Andrea, piuttosto che Tempi Duri, le cose mie, piuttosto che altre canzoni, quindi insomma magari mi richiedono alcune canzoni rispetto ad altre. Però in generale ascoltano il concerto e sono molto attenti, quindi probabilmente sanno già a che cosa andranno incontro, comunque un incontro di poesia, di musica, di racconti, a momenti intenso, bello, cerchiamo di tutti i modi di fare arte, con tutta la fatica che possiamo metterci e la voglia di farlo, perché la musica spero che si possa continuare a cercare di considerare tale, bisogna farlo, bisogna fare in modo che succeda, quindi io spero di poter fare arte, sto cercando di lavorare in questo senso per riportare la musica, la parola a questo modo vivente. Assolutamente. Allora, siamo quasi agli sgoccioli perché in radio, ahimè, il tempo è tiranno, però magari quindi vieni qui a Bruxelles, ci presenterai Come in cielo così in terra e anche magari rivisiterai qualche cosa. Così in guerra. In guerra, scusa, faccio sempre confusione, come in guerra. Quindi tu verrai qui a Bruxelles per presentare quest'album più altre canzoni oppure rivisiterai solo questo album, presenterai questo album? Perché in due ore... No, non presenterò solo l'album, presenterò alcune canzoni dell'album, rappresentative per me, altre cose del mio passato, quindi... dietro la porta, per esempio. E poi, dietro la porta? Dietro la porta, certo. Che è una delle mie canzoni preferite. Ricordo ancora quando la cantassi a Sanremo. infatti, sì, ci saranno altre cose, poi di Andrea canta di Andrea, quindi sarà un misto di cose tra mie e di mio padre, un po' di aneddoti, di racconti, così. E c'è un messaggio, c'è un magari, c'è un messaggio oppure c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti aggiungere dai microfoni di Radio Alma, brussellando? Il messaggio è amore vicendevole, ecco, emozioni, scambio di emozioni e condivisione di parole, di poesie e di musica. Questo è importante, quindi il tour si chiamava Via dell'amore vicendevole, perché è una frase di Invisibili che ho portato a Sanremo, che ha vinto il premio della critica l'anno scorso, e questo è poi il nostro motto. Via dell'amore vicendevole, quindi amore vicendevole, scambi. C'è una canzone che possiamo aggiungere così salutandoci, magari ci salutiamo anche con un po' della tua musica? C'è una canzone che vorresti dedicare al pubblico aspettandoti per il tuo concerto di sabato? Sì, potremmo, non so, io non sono molto bravo quindi, a consigliare le mie canzoni. Però fate voi, perché non va bene, allora ti consiglio che cosa vorresti mettere. Non lo so, ora ci penso un secondo e poi mi vediamo con la regia. Forse non lo so, dietro la porta. Vuoi mettere dietro la porta? Va bene, o Invisibili anche. Invisibili che è più recente. Allora, ci salutiamo con Invisibili. Cristiano, noi ti ringraziamo. Quindi ricordiamo ai nostri amici all'ascolto che Cristiano sarà qui con noi sabato 30 maggio in concerto all'Istituto Italiano di Cultura e ringraziamo gli amici di Beat Live che ci hanno permesso di poter avere Cristiano in collegamento telefonico dall'Italia. Cristiano, in bocca al lupo soprattutto. Grazie, capi il lupo, ci vediamo e ci vediamo a Bruxelles. Vi aspetto. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui e sono veramente ancora emozionata nel riascoltare veramente la voce di Cristiano, la sua gentilezza, la sua profondità. E continuiamo allora con l'agenda italiana. C'è ancora un altro evento organizzato questa volta dalla Piola Libri, cioè quello che vede protagonista Harry De Luca, che sarà qui a Bruxelles il 4 giugno, quindi l'ingresso è libero, quindi insomma per quanti non avessero ancora avuto il piacere di ascoltare Harry De Luca, sarà a Bruxelles, quindi ci sarà un incontro dibattito il 4 giugno dalle ore 18:57. Il giorno dopo, il 5 giugno, ritorna una delle voci che è stata protagonista di Radio Alma, di Bruxellando, a inizio stagione, quindi se ricordo bene credo fosse novembre, cioè Sara Romano, che invece sarà in concerto per l'appunto, come dicevamo, dalle 18:27, insomma, per essere sicuri, quindi potrete ascoltare Sara in concerto presso la Piola Libri. È un periodo ancora molto, molto interessante, l'agenda culturale italiana è effettivamente ricca di eventi, ma ne parleremo la settimana prossima. Volevo infine ricordare ancora un altro evento che mi vede protagonista, quindi il martedì, che dopo tanto tempo ritorna in libreria, ero stata assente per mesi per impegni diversi, per una presentazione che si annuncia interessante di contenuti, cioè una presentazione di cui già vi ho parlato da qualche settimana, e che è la finestra della libertà, frontiera per un'altra Europa, che racconta la storia di un gruppo di ebrei che riuscirono a salvare se stessi ed una piccola comunità del Salernitano nel secondo dopoguerra. Si tratta di una pagina di storia poco nota, che racconta l'importanza di valori quali la libertà, il coraggio, l'umanità. E alla vigilia di quella che è la festa della Repubblica, che avverrà la settimana prossima, e per continuare a ricordare l'importanza della democrazia e della pace, quali valori fondanti della nostra società moderna, invito veramente tutti coloro i quali ancora non hanno pensato a cosa fare il 1 giugno, già che non coincide appositamente con gli eventi che saranno organizzati per il 2 giugno, di venire in libreria dalle ore 18:27, quindi nuovamente alla Piola Libri in Rue Franklin 66 a Bruxelles. L'autrice è Giuseppina Di Stasi e vi assicuro che è un libro che si legge velocemente e credo possa essere un buon dibattito, soprattutto qui a Bruxelles, soprattutto alla luce di quelli che sono stati i recenti risultati elettorali in alcuni paesi a noi vicini. Io vi saluto, quindi auguro a tutti un'ottima settimana, a quelli che sono ancora in vacanza, auguro ancora buone vacanze, spero che possiate partecipare numerosi a questo evento lunedì prossimo, il 1 giugno, e penso che come al solito inizieremo verso le 19. L'evento potrà avvenire anche in francese, quindi c'è la possibilità di avere un evento che possa svolgersi nelle due lingue, quella italiana e quella francese. Visitate come sempre il nostro sito internet, che è radioalma.eu/bruxellando, dove potrete ritrovare le informazioni di cui vi ho appena parlato. Sono ritornata da poco da un viaggio degli Stati Uniti, quindi scusate la mia voce un po' rauca e soprattutto il jet lag, non pensavo potesse essere così significativo, ero abituata ad altre latitudini, insomma è la prima volta veramente in questo paese che effettivamente insomma meriterebbe una puntata, una ci sarà sulla politica estera, ma chissà che per la prossima stagione non possa invece preparare qualcosa proprio ad hoc. Ringrazio Dani M veramente per la cooperazione straordinaria, come sempre ringrazio la Piola Libri, Bait Live per la squisita cooperazione, quindi vi lascio con la seconda parte della trasmissione, quindi con Imola e con George. Buona settimana a tutti e soprattutto a martedì prossimo, in occasione del 2 giugno, quindi festa della Repubblica. Buona settimana, Radio Alma, Bruxellando, martedì. Eccoci, ben arrivati, bentornati dopo questo sole bellissimo che abbiamo avuto questi giorni. Solati. Non è ancora dopo. E non è ancora dopo, in che senso? Ancora c'è il sole. Sì, no, è vero, c'è ancora il sole, ma in realtà bisogna approfittarne perché il sole qui va e viene, soprattutto va e viene poco. Però, a parte questo, ben ritrovati, perché ci piacciono queste temperature calde, personalmente mi sembra di essere tornato in Italia. Mi sembra di essere tornato alle temperature della mia città di origine, che in effetti in questo periodo ha questa temperatura, e quindi insomma, mi sembra un po' un piccolo sogno, questo bel sogno che ci regala Bruxelles in questo periodo, in questo momento. E quindi ringraziamo Meredì che ci ha lasciato il microfono, la parola, e noi questa sera vorremmo presentarvi una cosa interessante. Abbiamo una sorpresa che viene un po' da lontano, una sorpresa che viene da lontano ma si avvicina a grandi passi a Bruxelles. E infatti in linea abbiamo una persona particolarissima, abbiamo Diego Ravier, non so, ora capirete, ci faremo spiegare da lui come si pronuncia esattamente il suo nome, ed è una persona che conosceremo fra poco, e vedete, avrà delle cose estremamente interessanti e particolari. Diego, ci senti? Vi sento, buonasera. Buonasera a voi in studio, buonasera anche ai vostri ascoltatori. Buonasera, allora Diego, intanto il tuo cognome come si pronuncia? Ravier, allora va bene, bene. Qualche parente lontano francese, penso. Però di origine tu non sei francese, a parte le lontane origini. Mettendo in pillole, ho in 140 caratteri la mia biografia, sono figlio di padre argentino, madre triestina, è nato in Spagna e residente in Francia. È residente in Francia? Ah. Sì, abito a Marsiglia. Beh, bellissima città Marsiglia, credo che sia ricca di... così, di novità, di eventi, di cose interessanti da vedere, da fare. Marsiglia ha una storia incredibile anche nel cinema. Ha una storia interessante, anche ricca, pensando a livello sociale, è una città comunque dove si mescolano tantissime etnie diverse e mostra un pochino un quadro di quello che è attualmente l'Europa, anche della convivenza un pochino instabile di culture diverse in un contesto sicuramente meraviglioso, perché si apre davanti al Mediterraneo, alle isole. Una bella città, è molto interessante, senza dubbio. Bene, noi siamo anche felicissimi di sentirti parlare in italiano, cosa che non è facile, non è comune con gli artisti stranieri, però in questo caso ti faccio i complimenti. Però veniamo a... passaporto italiano io, eh? Hai anche il passaporto italiano? Ah sì, passaporto italiano, ah, bene. Vince sempre in famiglia. Beh, ne hai diritto, assolutamente diritto, lasciatelo dire. Diego... Allora, in caso ci fa un residente francese di origine argentina, con le origini ancora più indietro francesi, a Bruxelles, perché c'è una novità. Tu verrai a Bruxelles, giusto? Sì, il 2 giugno. Il 2 giugno? Sì. Il 2 giugno è la festa della Repubblica, quindi cosa c'è di meglio che avere un artista con origine, anche un passaporto italiano, che viene il 2 giugno a Bruxelles? Raccontaci un po'. Cosa viene a fare a Bruxelles 2 giugno? Beh, magari inizio a spiegarvi un attimino il mio percorso. Io sono un giovane fotografo, diciamo che la mia vita come fotografo nasce da 6 anni. Precedentemente io ho studiato economia aziendale, ho lavorato in una grossa azienda automobilistica tedesca e un giorno ho deciso, diciamo, una parola che è abbastanza di moda ultimamente, una riconversione professionale, alla ricerca un pochino di nuovi stimoli, ma anche per una voglia innata di qualcosa da dire. Da 6 anni quindi ho scelto come mezzo di comunicazione la fotografia e ho lavorato durante quasi 3 anni in progetti legati a ONG in Africa, in particolare sull'albinismo e la lepra. E il 2 giugno esponiamo, e parlo al plurale perché questi progetti sono stati fatti anche tra l'altro con mia madre, giustamente, esponiamo il 2 giugno alla cooperazione belga due serie, una serie che si chiama Contrasto genetico sull'albinismo, come dicevo prima, e un'altra che si chiama Il teatro della vita sulla lebbra. Ah, ci picchia, sono dei concetti. Mi lascio un po' perplesso, nel senso che veramente la lebbra e l'albinismo sono due cose, la lebbra la conosciamo da molto tempo come fenomeno, ricordo già da molti anni, insomma, veniva pubblicizzato perché era richiesta di aiuti. L'albinismo invece mi lascia un po' perplesso, dato che noi viviamo in un mondo di bianchi, l'albino non ci fa grande effetto, ma in un mondo di neri, ecco, la classica mosca bianca, ecco, si potrebbe dire. Raccontaci un po' quello che ho cercato di fare, magari per cercare di unire un attimino perché queste due serie vengono esposte insieme. È perché l'idea appunto di partenza è come in un certo modo la società stabilisca determinati criteri che sono anche legati alla malattia, nel senso che quando vediamo una persona menomata per la lebbra o in questo caso, come ben dicevi tu, una persona bianca in un mondo di neri, rimaniamo sorpresi anche per certi a priori stabiliti dalla società. E in certo modo quello che noi abbiamo cercato di fare è stato di vedere come potevano essere capovolti questi stigmi in certa maniera. Per cui abbiamo, non voglio svelare tutti i segreti perché spero che i vostri ascoltatori vengano a vedermi, ma in certo modo è un mettere in dubbio certi assiomi stabiliti che una persona che è con determinate amputazioni dovute alla lebbra per aver subito la malattia durante anni ha comunque dietro questa forma corporea una persona, una vita e uguale a quella di tutti gli altri, soltanto che a volte noi magari ci fermiamo a quello che è la corazza. In questo caso per me la fotografia è quindi diventato lo strumento per portare questo messaggio che dopo deve essere riletto dalle persone che guardano le mie fotografie. Proprio su questo punto, visto che parliamo della parte della lebbra, poi affronteremo anche l'albinismo, ma sulla questione della lebbra vorrei capire, tu mi parlavi di corazza, immagino volessi anche riferiti all'apparenza, nel senso che noi ci fermiamo all'apparenza, mentre dietro l'apparenza c'è una storia, c'è una vita intera. Allora cercavo di capire come funziona, perché la fotografia è una cosa che mi interessa moltissimo, perché io non sono in grado di fotografare, cioè non nel senso che non sono in grado di fare click sulla macchinetta, però le mie foto non parlano, invece le foto di persone come te che hanno questo spirito, questa arte dentro, riescono a far parlare le immagini. Allora mi sto chiedendo come si riesce a far parlare con uno strumento estetico, qual è la fotografia, perché prende un'immagine, come si riesce a trasmettere invece la vita che c'è dietro, perché viene immediatamente alla mente l'immagine di un lebbroso, appunto come dicevi tu, di amputazioni, quindi è un messaggio anche forte, diciamo che contrasterebbe contro la bellezza, tra virgolette, dal punto di vista estetico. E quindi vorrei sapere come riesce a conciliare, perché comunque c'è una bellezza in qualsiasi cosa, una bellezza in senso più ampio, un'armonia che va cercata non nelle amputazioni ovviamente perché rendono disarmonico il corpo, ma un'armonia nella vita che ci sta dietro. Tu come riesci a trasmettere questo messaggio? Ma in realtà penso che sia anche molto legato a quello che uno sente, nel senso che io ho lavorato durante 3 anni con dei malati di lebbra, le prime fotografie che venivano fuori nel mio primo contatto con dei malati sicuramente hanno una visione molto più cruda di quello che è stata invece l'ultima serie che è il Teatro della Vita, per cui sicuramente c'è questo primo filtro già che è legato al nostro stato d'animo nel quale noi ci confrontiamo con un determinato soggetto che abbiamo davanti quando fotografiamo. Poi in funzione anche del messaggio penso che uno voglia trasmettere, si cerca di utilizzare lo strumento principale della fotografia che è la luce in un determinato modo per cercare di enfatizzare certi aspetti o meno. Per esempio nelle 2 serie che espongo si tratta di luce artificiale, ma luce artificiale perché è stato scelto un approccio determinato per mostrare una determinata estetica in un determinato modo per realizzare un determinato messaggio. Dopo esiste anche tutto quello che è, diciamo, la preparazione alla fotografia. Penso che tutti i fotografi abbiano le loro tecniche diverse, ma bisogna anche adattarsi al soggetto che si ha davanti. Per esempio nella serie legata all'albinismo, io mi ricordo che abbiamo passato forse 5 o 6 ore a parlare con dei soggetti che in realtà l'albino vorrebbe diventare nero, non vuole essere il protagonista della storia. Per cui bisogna senza dubbio stabilire un contatto che può durare 3-4 ore a parlare dei loro problemi, dei loro non problemi, a scherzare, e forse alla fine la fotografia diventano 5 minuti ed è forse alla fine l'apice di quel processo di parlare con la persona. Poi io concepisco anche la fotografia come un gioco, nel senso che per esempio invece riprendendo il tema della lebbra, di come è stato trattato nella serie, abbiamo stabilito una forma di teatro con i soggetti che fotografavamo. Penso che loro siano abituati anche, perché ci sono tantissime ONG che lavorano attualmente con malati di lebbra, come ben dicevi tu, ma un approccio nel quale la gente si diverta e assuma lo shooting di fotografia come un gioco, penso che non fosse stato fatto con loro. Per cui è diventato veramente un teatrino nel quale i bambini, i figli delle persone che erano fotografate erano dietro di me, io ero a 20 centimetri dal naso perché utilizzavo un grandangolare, mia madre era con un secondo flash sulla sinistra e il tutto diventava un gioco, un divertimento. Un gioco, un divertimento legato però al messaggio che volevamo trasmettere. Come reagivano di fronte al fatto di essere fotografati, cioè che la loro menomazione venisse poi rivista da qualcun altro? Ne erano coscienti o nel gioco questo si è perso? Penso che ne fossero coscienti all'inizio e penso che sia anche parte, nello stesso modo che tu fai con me parlando e cercando che io mi senta comodo parlando con te, la stessa cosa succede con una persona che viene fotografata. Non si può rubare l'anima di qualcuno senza che te la voglia dare. In realtà non si ruba, ti viene data, secondo me. Questo mi fa venire in mente quando diceva appunto che molte popolazioni primitive, ma questo si vede anche nei film, insomma, ogni tanto capita che le persone non vogliono essere fotografate perché si ruba l'anima. Mi è piaciuto molto questo che hai detto, che in realtà l'anima io non posso rubartela se tu non me la dai, non c'è verso di rubare l'anima. Io penso, ne sono convinto. Tu ne sei convinto? Sono convinto perché è una forma di associazione, di accordo tra due persone. Tu mi stai dando la sua immagine, la persona che io fotografo, mi sta dando un determinato sentimento che dopo io filtro con le mie sensazioni, con il mio background, con quello che io ho vissuto e che dopo io metto a disposizione di altre persone che filtreranno in un altro modo. Però il punto di partenza rimane comunque il soggetto. Senza il soggetto la persona che andrà a vedere l'esposizione a Bruxelles e le foto sarebbero bianche, o nere forse. E anche questo sarebbe... Esiste comunque tutta questa forma di passaggio che passa dal soggetto che viene fotografato e tutti questi filtri che ci sono successivamente. C'è gente che ho sentito anche mentre, perché l'esposizione l'abbiamo montata la settimana scorsa a Bruxelles, è già montata e si può già visitare, anche se facciamo il vernissage un po' strano, un po' alla belga, facciamo una settimana dopo che è stata montata l'esposizione, sì. Ma ho già sentito gente della cooperazione stessa che ha una visione che è completamente diversa dalla mia, loro, per esempio sulle foto della lebbra la giudicano come una forma irrispettosa o provocatoria, quando le mie intenzioni erano diverse, ma tutto è un dibattito che comunque arricchisce l'esperienza fotografica, l'esperienza di mostrare le fotografie e il viaggio che hanno fatto queste persone. Io ho sempre cercato e penso che non ci siano altri fotografi che fanno la stessa cosa, soprattutto quando si lavora con ONG o quando si lavora in paesi, chiamiamoli del terzo mondo. Ho cercato di che ci fosse una continuità, nel senso che queste persone mi danno un qualcosa a me e io ho l'obbligo di mostrarlo, e l'obbligo di mostrarlo è attraverso delle mostre. Abbiamo questa genetic contrast, il contrasto genetico è stato esposto anche per esempio a Würzburg in Germania ed è venuto Salif Keita a suonare, siamo riusciti a portare il capo dell'associazione che c'era in Burkina Faso a parlare. Diventa tutto l'idea di creare uno stimolo nello spettatore, una curiosità di andare a cercare, di incuriosirsi, di cercare di analizzare il problema e venga le conclusioni che ognuno ne trae. Mi incuriosisce molto la reazione negativa. Sono assolutamente d'accordo con te riguardo ai filtri. C'è un filtro in chi ti dà la fotografia, la propria immagine, c'è un filtro nella tua persona che legge l'immagine che viene data. Poi c'è un filtro dato dal mezzo stesso, un nuovo filtro della persona che legge la foto, quindi è veramente una serie continua di filtri, ma questo è credo che sia la vita. La vita stessa, un insieme di filtri e di controfiltri. Mi interessava capire se è possibile, visto che alcune persone, proprio qui in Belgio, ti hanno detto che queste fotografie erano irrispettose. Ecco, questo significa che il messaggio non è passato, o che non è possibile che il messaggio passi, che forse c'era un altro modo, o i filtri sono proprio bloccati e quindi no, queste persone... I filtri ci sono e ognuno ha il diritto sacrosanto di vedere le cose in maniera diversa, e se il messaggio fosse univoco in una sola direzione il messaggio sarebbe noioso e non ci sarebbe dibattito e non si costruirebbe qualcosa. Se c'è una critica costruttiva, vuol dire che c'è un'analisi, vuol dire che si cerca di vedere la problematica e si cerca di capire. Non penso che sia una questione di filtro, proprio il fatto che ci sia una diversità di giudizi, scusa, è qualcosa che è costruttivo. Ed è logico, è benvenuto e ben accetto. Mentre stavi parlando, stavo pensando proprio alla cultura belga, all'idea che mi sono fatto io, l'opinione che mi sono costruito della cultura belga, quindi pensavo veramente che mettere a nudo le proprie deformità, io ancora non ho visto, lo dico ai nostri ascoltatori, la mostra, ma ormai sono definitivamente conquistato, quindi dovrò andare a vederla, vernissaggio meno, ma ricordo a tutti, ne approfitto già adesso per dire che l'esposizione è all'Agenzia dello Sviluppo CTB, che è a Rio 847, appunto ha cominciato l'esposizione, è stata aperta il 22 maggio sarà aperta fino al 17 luglio ed è aperta dalle 10 alle 14, dal lunedì al venerdì, un orario un po' strano per la gente, insomma, dalle 10 alle 16. Sì, dalle 10, scusa, ho sbagliato, dalle 10 alle 16, dicevo un orario un po' strano perché magari uno ha più tempo sabato e domenica per andare a vedere, però tant'è. Quindi senza dubbio, però i mezzi erano quelli della cooperazione belga, che approfitto anche a ringraziare di mettermi a disposizione, e penso che fosse anche importante di esporre la cooperazione belga, perché alla fine l'edificio della cooperazione belga appartiene ai belgi ed è logico che venga aperto e che sia fatto possibile mostrare altre cose che si vanno al di là dell'ufficio. Alla fine tutti coloro, certo, che lavorano alla cooperazione belga lavorano grazie ai belgi, per cui in certo modo è casa loro, ed aprire la casa della cooperazione belga, comunque una mostra, lo giudicavo come un'esperienza forse perfino più interessante di esporre in una galleria, come sono già stati esposti tutti i progetti. Beh, sicuramente un'interazione diretta fra il mondo della cooperazione, cioè persone che lavorano come anche tu hai lavorato giù, tra virgolette, nel terzo mondo, e quindi vedere anche le stesse cose sulle quali uno lavora, vederle viste da un punto di vista differente, credo che sia comunque interessante. Volevo ritornare però un attimo a una cosa che mi lascia sempre perplesso, e avevo lasciato all'inizio un punto di domanda su questa faccenda, ed è quello dell'albinismo. Il bianco in un mondo di neri come si trova? Segregato, allontanato, viene visto come una cosa particolare, interessante, o come un mostro? Diciamo che è molto difficile fare una generalizzazione, nel senso che in Africa, io utilizzo una parola Africa che è generalissima, basta fare 20 chilometri e la tradizione animistica magari porterà a trattare un albino in un modo o in un altro. Uh-huh. In generale, facendo veramente una generalizzazione enorme, diciamo che viene visto come porteur de bonheur et de malheur, portatore di benaugurante e malaugurante in contemporanea. Ci sono dei casi radicali, come può essere quello della Tanzania, dove si amputano braccia o gambe di un albino e si fa una zuppa o delle cose stranissime perché si crede che porterà una buona annata di pesce o permetterà di trovare dell'oro. Dopo ci sono altre parti in Africa dove non è così radicale questo atteggiamento, però diciamo che è sempre l'attitudine verso il diverso, abbiamo qualche problemino per gestirla, diciamo. Sì. In generale, parlo della società in generale. Sì, sono d'accordo. Un problema legato a come mal definiamo tutti e due, penso, i paesi del terzo mondo. Sì. Anche io, quando sono arrivato, forse è stato questo il punto di partenza. Io, quando ho avuto la mia prima esperienza in Burkina Faso, è stata la mia prima esperienza in Africa. Sono arrivato come uomo bianco in un paese di neri, di gente di colore. Ed è incredibile come, ed è lì che mi riprendo un pochino il discorso sugli assiomi che vengono determinati nella società, che stabilisce tu sei normale, tu non sei normale. Io ero visto in un determinato modo e trattato in un modo, e alla fine della fiera avevo lo stesso colore di un albino. Però l'albino viene trattato in maniera diversa perché c'è una determinata tradizione animista, magari si potrebbe, se volessimo proprio prendere con le pinze, potremmo anche perfino collegarlo a una forma di qualcosa legato al colonialismo, ma alla fine non era quello, non, il mio obiettivo non era quello di entrare in questi dettagli, ma era quello di proprio dire perché io sono trattato in un determinato modo per il mio colore della pelle e un'altra persona che ha lo stesso colore mio della pelle, ma dei tratti che non sono come miei, viene trattato in una maniera diversa. Può essere legato sì alla tradizione animista, perché come ho detto magari si fanno dei sacrifici anche nei confronti di albinos, che si ammazza una mucca e si mette la testa della mucca davanti alla casa dell'albinos, o si strappano i capelli pensando che porterà buona fortuna, o si crede che avere del sesso con un albino porti fortuna, ma sposarsi con un albino non porta fortuna. Penso che siano solo dettagli alla fine di quello che è il problema più generale. Il problema è, magari divento ripetitivo, ma è come veramente una società può stabilire per la tradizione, per la moda, che un oggetto, una persona sia catalogabile come normale e qualcun altro come non normale. Mi riprendo anche a quello che ho detto prima, sicuramente per la parte complicata per noi del processo fotografico, quando abbiamo fatto le fotografie con gli albino, è che bisognava spiegare loro che loro sarebbero diventati i protagonisti della fotografia e loro non vogliono più essere i protagonisti della storia. Loro l'unica cosa che vorrebbero essere è rientrare di nuovo in quel concetto di normalità. Certo, io sostengo da sempre che la normalità sia in realtà nient'altro che una rappresentazione di una curva gaussiana. Il normale è ciò che succede più spesso. Quindi al centro della curva l'uomo medio, nel senso medio, non voglio dire mediocre, ma proprio medio, che è il centro, è l'uomo perfetto, cioè quello medio. Le punte, gli estremi, dovunque si situino, sono diversi. È diverso il genio, e infatti per dire genio e per accettare il genio bisogna dire genio e sregolatezza, ecco. Però si accetta per la parte vantaggiosa, quindi facciamo un bilanciamento fra vantaggi e svantaggi. Quando poi invece c'è un albino che non è niente di particolare, o una persona deforme o qualsiasi altra cosa, quindi si allontana dalla normalità e si avvicina agli estremi della curva gaussiana, ecco che non fa più parte del centro, quindi è qualcosa di altro. Credo che sia l'incapacità proprio dell'essere umano di riuscire a percepire il concetto di normalità e di diversità. Noi non siamo in grado di gestire, credo che sia proprio un limite del cervello umano, quello di essere incapace di gestire la pluralità. Arriviamo a un certo momento in cui non riusciamo più a gestirla e quindi dobbiamo semplificare, tendiamo a semplificare, ecco, questo è normale, questo no. Se poi ci mettessimo veramente a pensare, forse troveremo che questa persona diversa, queste cose diverse, poi tanto diverse non sono, ci sono molte più comunanze che differenze, però... Ah, io vi posso assicurare che gli albino si puliscono i denti come mi pulisco io i denti, come faccio io la doccia, e dormono in posizione orizzontale, non verticale. Sono completamente convinto. Anch'io sono assolutamente convinto, però queste differenze, che in realtà sono molto minime, noi le ingigantiamo, solo per paura, per comodità, per difficoltà. Magari, rientro in un discorso un pochino troppo ampio, che è anche il discorso che è molto facile andare contro il debole, contro il forte è molto più complicato, ma contro l'elemento debole è molto più facile attaccarlo. In questo caso sia gli albinos che la lebbra in un certo modo rappresentano l'elemento debole della catena, perché sono storicamente, nel caso come ben dicevi tu di nuovo, la lebbra abbiamo dei riscontri. Sì, da Rauw Fleurot in poi, insomma, la conosciamo. Io sono stato in Brasile, in lebroserie che esistono ancora adesso, dei villaggi dove abitano solo lebrose, e mi mostravano le monete di quando è stato creato il villaggio della lebbra, perché avevano il loro sistema di commercio interno al villaggio e per non mescolarsi con l'esterno avevano una moneta propria. Beh, è incredibile, insomma, non si finisce mai di imparare. Io purtroppo... Siamo arrivati alla fine dei nostri pochi minuti in radio, ma sono stato estremamente felice di fare la tua conoscenza, caro Diego Ravier. E io invito tutti nuovamente a passare al centro di sviluppo belga, a Riott, dalle 10 alle 16, dal lunedì e venerdì, fino a luglio, fino a metà luglio, ma insomma cercate di andarci il prima possibile, perché... Anche al vernissaggio siete più che benvenuti a bere un bicchiere di vino martedì 2 giugno. Benissimo. Tra le 16:30 e le 19:00. Perfetto. E approfitto per ringraziarvi per perché è stato anche per me un enorme piacere. Grazie, grazie infinite Diego Ravier, un grande successo, io spero di incontrarti di persona, e grazie ancora per le tue parole che sono state veramente interessanti dal punto di vista di sono movimentate, nel senso che mi hanno mosso dentro qualcosa, quindi sono convinto che troverò questo stesso movimento anche nelle foto. Ti ringrazio infinitamente. Speriamo. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Ciao Diego. Grande George, volevo semplicemente prima della chiusura ricordarvi che abbiamo due biglietti per il concerto di Cristiano De André di venerdì 29 maggio, gentilmente forniteci da Bait Live, il concerto avrà luogo all'Istituto Italiano di Cultura, le prime persone che scriveranno a mail a brussellando@gmail.com riceveranno il biglietto gratuito, ne abbiamo solo due, quindi Cristiano De André e Niccolò Carnesi in concerto venerdì 29 maggio al 2015 Istituto Italiano di Cultura alle 8:30. Le informazioni le trovate sul sito www.baitlive.com. E voilà, Bait Live, che ormai sta portando un sacco di artisti italiani, di musicisti italiani, di cantautori, di quanto si voglia di musica in Belgio, e noi ne siamo grati perché in effetti ci fa estremamente piacere. E vabbè, questa sera purtroppo, come avete sentito, anzi come avete non sentito, il nostro angolo preferito, che è il librangolo, non c'è stato. D'altra parte ogni tanto cambiamo idea, no? Mi riscorderò per la prossima volta. Sì, anche perché insomma questa intervista era troppo interessante. Effettivamente, quindi a volte bisogna ascoltare. Sì, sono assolutamente convinto che a volte bisogna sia necessario veramente ascoltare, soprattutto quando ci sono certe persone che riescono a trasmettere non solo